24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chiacchierando con le persone nel bar sotto casa mia, l'umore principale era che comunque questa discussione, sentivo che anche il senatore Latorre lo proponeva questo argomento, è una discussione che va terminata, che il vero problema, il vero sentimento delle persone, il problema è come, però, e che sarebbe stato molto utile, molto utile a tutti che ci fossero le dimissioni del senatore Berlusconi. Vabbè, questioni di bar evidentemente, nel bar sotto casa di Gasparri si parla di Lanzillotta, della Lanzillotta che ha votato per il voto palese nel bar sotto casa di Gasparri. Mamma mia, e Gasparri dice cambi bar all'altro. Ma no, cambia bar tu, Gasparri. Ma com'è possibile che nel bar sotto casa si parla di Lanzillotta? Io, se vado in un bar, insomma, di Berlusconi non parla nessuno, della Lanzillotta men che meno. Nei bar si parla di altre cose, il mondo reale, il mondo che anche oggi si è svegliato, non parla della decadenza di Silvio Berlusconi. Su, siamo seri. Sono le 6:30 minuti e noi siamo in diretta. È la diretta di 24 mattino, un venerdì 1 novembre, venerdì qualunque. Siamo qui, io, Miriam Lucchetti in redazione, l'alpino Peter Bescapè in regia, il Parlamento che può aprire, la Serranda, Nicole Minetti, tutti! Il caffè volentieri a tutti quanti. Sì, non ce la contrabile a tre, Milan, sei proprio un coglione. Come cazzo fai a lavorare lì? Ma non è possibile che sei un pirla così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Oggi proprio il primo novembre mi fate questo regalo, grazie all'alpino Peter Bescapè. Voglio salutare i miei due eroi, compagni di viaggio, vi abbraccio attraverso il telefono e vi ringrazio. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, grazie di essere qui con noi, grazie, veramente. Buongiorno. Come Alessandro Giglioli dell'Espresso, grazie, buongiorno Alessandro. Buongiorno, ma io mi alzo sempre presto, i veri eroi sono quelli che oggi vanno a lavorare, ci stanno ascoltando andando a lavorare. Ah, certo. Oggi non faccio una mazza, invece c'è qualcuno che va a lavorare, quindi devo dire. Va bene, i veri eroi, dai. Dai, loro i veri eroi. Allora 349-238-6666, vi do il numero per i messaggi, così siete veri eroi. Tutti nuovi eroi. Cioè, subito, buongiorno e auguri dal debosciato Marco. Ma no, com'è debosciato? Se è sveglio Marco è tutt'altro che debosciato. Evviva. Allora, io voglio subito... Intanto Libero ha un'esclusiva, Lo dico, è Libero un'esclusiva. Io, Massimo De Manzoni, c'era una cosa che andava bene in questo Milan. Una che andava bene in questo Milan disastrato. Giglioli, indovina qual è l'unica cosa che andava bene, no? Se hai visto la partita, l'ultima partita, chi è l'unico che si salvava nel Milan? L'unico. No, non l'ho visto, dai. Chi è l'unico per il quale il pubblico ancora un po', no? Chi è cacà, no? No. Oggi su Libero, guai col fisco, cacà indagato a Milano. Ma porca... Ma Massimo De Manzoni, ma anche voi, ma queste notizie, ma potete, se sono vere, potete tenervele nel cassetto e non rompere i maroni, come si suol dire, no? Cioè... è colpa nostra, è colpa del... Anzi, noi siamo un po' scandalizzati del fatto che sia indagato cacà, se devo essere sincero. Poi dopo nel petto si spiega perché è elusione fiscale, perché ha già saldato i conti poi con il fisco, per cui l'azione penale non sta tanto in piedi, però in piedi e noi riferiamo. Vabbè, guai col fisco, cacà indagato a Milano. Sì, in realtà avrebbe già chiuso i conti col fisco, però l'indagine penale rimane in piedi. Vabbè, verrà archiviato tutto, insomma, salvo anche cacà. Vabbè, Vedremo. Io glielo auguro. Vabbè. No, la vera con la giustizia in Italia. Come diceva quello, se ti accusano di aver violentato la Madonnina, cosa devi fare? No, infatti. No, il vero problema che dicevi, Giglioli, che c'avevi da dire interista su cacà? ministro abbiamo della giustizia? Io sono più scandalizzato di quello che ha fatto il ministro della giustizia, se non volevo. No, ma infatti, ma lì volevo arrivare. Più gravina quella, Lì volevo arrivare. Allora, tutti i giornali più o meno aprono, comunque danno grande risalto a questa vicenda del ministro Cancellieri. Le telefonate della Cancellieri, che ha chiamato e ha ricevuto anche delle chiamate, si è impegnata in prima persona per fare in modo che Giulia Ligresti, che stava male in carcere, potesse fare qualcosa, ecco, per affrontare questo caso giudiziario. Allora, sapete come dice di trovarsi la Cancellieri? Molto amareggiata. Dice: caro Giglioli, l'ho fatto per decine di detenuti, è un preciso dovere del ministro, quando ci sono casi umanitari, intervenire. Ovviamente gli ha fatto notare che suo figlio ha lavorato per Ligresti e lei, ma scandalizzata, ma non c'entra nulla. E che doveva fare, Giglioli? Si dovrebbe dimettere, secondo te? Ma doveva essersi già dimessa. Ma è una cosa scandalosa, vergognosa, quasi indicibile. Ci sono centinaia di detenuti che stanno male, malissimo, che si fanno, che si suicidano quasi uno al giorno. Ci sono detenuti che muoiono tutti i giorni nelle carceri italiane. Lei per chi si mobilita? Per la figlia di uno degli uomini più ricchi d'Italia, che guarda casa un amico di famiglia. Punto, fine, non c'è altro da dire. Poi può dire quello che vuole, che l'ha fatto per altri, certo, non credo che l'abbia fatto sicuramente per tutti, perché sono talmente tanti che non dovrebbe fare altro tutto il giorno. Chiaro, questo di telefonare. Quindi l'ha fatto per la figlia di un amico che è un miliardario, punto, fine, che è proprietario che era proprietario di una parte di alcuni dei media italiani, che è l'establishment potente in questo paese del cazzo, scusami il linguaggio a quest'ora. Ci si divide sempre fra sommersi e salvati, fra chi è potente, chi è amico, chi ha conoscenze. E quindi, insomma, per te basta, punto. È una questione al di là di eventuali reati. Questa doveva essere andata ieri sera, ma ancora lì, ma si vergogni. E questo è lo sfogo dei Manzoni. Devo dire che anche voi su Libero scrivete un altro ministro. Ieri avete fatto tre ministri da buttare, oggi non potevate credere all'assist che vi è stato fornito anche il ministro Cancellieri. Anche per te, Massimo, dovrebbe dimettersi. È difficile che possa rimanere lì il ministro della giustizia che telefona per un detenuto con una situazione che è più o meno analoga a quella della Ligresti. Secondo me la Ligresti doveva uscire, questo va premesso, sì. Perché era un caso umanitario molto molto situazione preventiva, costava male, sì, giustamente. Ce ne sono a migliaia in queste situazioni. Nessuno crede che la Cancelliere abbia fatto migliaia di telefonate analoghe. L'ha fatto per un amico, ma è un ministro. Un ministro doveva fare un'altra cosa, doveva impegnarsi perché ci fosse una legislazione un po' diversa. Però tu dici, Massimo, non solo dovrebbe dimettersi, dici credi davvero che non possa rimanere? Perché per il momento c'è il silenzio tombale di Letta. Io sono convinto che si dimetterà. Si dimetterà. Come tante altre cose partono in sordina quasi. Ricordate il caso di Josefa Idem, no? Che all'inizio sembrava ma no, e poi dopo quando monta la Scaiola, Scaiola, io già vedendo io sono abbastanza convinto che la Cancellieri non riuscirà a rimanere. No, anche perché guarda che Alessandro Giglioli, io ho davanti i titoli dei giornali e ci sono almeno 3-4 quotidiani, non so, Il Secolo XIX, Cancellieri della Bufera, Repubblica, le telefonate della Cancellieri. Sai meglio di me, Alessandro, che quando poi i giornali iniziano così, magari lentamente poi monta la questione e poi insomma, un presidente del consiglio come fa a mantenere un ministro? Sì, spero che tu e Osvaldo abbiate ragione. C'è il precedente non bellissimo di Alfano del caso Kazako, dove c'è stato qualcosa di forse di meno grave ma comunque molto brutto, ricordiamoci, una bambina piccola cacciata via dal nostro paese perché un dittatore di uno stato, diciamo così, amico ha voluto che così fosse. E Alfano non si è dimesso, e quella è una cosa vergognosa quasi quanto questa. Il caso Idem delle tre vicende, sia chiaro, io sul mio blog e sull'Espresso ho scritto che Idem si doveva dimettere, quindi non so difendere uno del PD, ci mancherebbe. Però dei tre casi, il caso Idem è il meno grave, perché questa è brutta anche quella, per carità, ma se dobbiamo metterla su un piano, questo è più grave di tutti. Quello di Alfano grave, quello della Idem fa schifo pure quello, ma dei tre finora è l'unica che si è dimessa. Sì, al momento, poi spero che abbia ragione voi. No, ma insomma, vediamo poi che succederà. Certamente la difesa del ministro Cancellieri è un po' zoppicante, come dire, la fa soprattutto con Repubblica, sembra un dialogo. D'altronde Repubblica ha tirato fuori la vicenda ieri a dire ma no, ho chiamato anche una volta Adriano Sofri, mi ha segnalato un detenuto e io ho chiamato anche per lui, è un preciso dovere del ministro. Ma no, insomma, il dovere del ministro è un altro, il dovere del ministro è intervenire con atti ufficiali per evitare che migliaia di persone rimangano in carcere in attesa di giudizio senza un motivo vero. No, certo, fare le leggi per agevolare per tutti la situazione. No, ma poi c'è proprio il ministro Cancellieri, che è la prima che si è spinta molto per dire l'amnistia, le carceri, la situazione delle carceri degradante, eccetera. Sì, effettivamente fa molto specie, cioè è intervenuta, lo ricordiamo, e lei dice non c'entra nulla, ma il figlio, suo figlio ha lavorato per l'Igresti, ci sono state anche polemiche perché dopo un anno se n'è andato con una liquidazione di 3 milioni di euro, comunque ha lavorato per l'Igresti, è un'amica di famiglia e non disconosce assolutamente questa amicizia profonda. Addirittura si sono sentiti il giorno dell'arresto di Ligresti con la moglie di Ligresti e ci sono le telefonate con il ministro Cancellieri che dice alla moglie di Ligresti: no, ma questo modo incredibile, ti sono vicina, farò tutto quello che puoi per me. Insomma, Massimo, che dobbiamo dire? No, quello che c'era da dire penso che abbiamo detto. L'abbiamo detto. Ha ragione la Cancellieri quando dice è incredibile che una persona malata in quelle condizioni stia in carcere. Sbaglia la Cancellieri quando interviene per quella persona e non per tutti gli altri che sono nelle stesse condizioni. Sì. Non è giusto, no, altro da aggiungere, no, è chiaro, il giorno dell'arresto chiama la moglie e al telefono: contate su di me. Questo è il concetto molto molto stringente. Vabbè, vogliamo parlare di quello che è successo a Roma ancora ieri, gli scontri. Io ho messo questa foto su Twitter, è vero, come tutte le foto sono degli istanti ripresi, ma c'è questa foto di alcuni dei manifestanti che con la scusa della casa, diciamo la verità, poi è degenerata con assalti ai blindati, che con i manganelli sono sopra i blindati dei carabinieri sul cofano. Io ho messo questa foto, Alessandro Giglioli, a dire: da che parte state voi a vedere questa immagine, no? Giglioli, qui ogni giorno a Roma c'è il rischio che, a Roma come in tutte le città italiane, che da delle proteste anche per alcune cose legittime, e poi perché si sfocia in questo tipo di violenza? Ci vai mai a vederle una di queste manifestazioni, Alessandro? Io ogni tanto ci vado e lo faccio senza alcuna, devo dirti la verità, io sono un signore di 50 anni che sta economicamente bene e che è abbastanza appagato dalla sua vita, quindi ci vado con lo spirito entomologico, non certo perché carico di rabbia. Beh, se ci vai a vederle vedi che c'è dentro un po' di tutto, cioè c'è dentro l'isterico, quello che ha voglia di far casino nella vita e che la può fare lì così come negli stadi, e ci sono dentro i disperati. Quindi se tu mi fai vedere una foto, è chiaro che io sono per la legalità, cioè, spero di non aver bisogno di ricominciare da capo tutta la tiritera della legalità. Però c'è una situazione sociale in Italia di una minoranza, e questo è ancora secondo me più grave, perché questa minoranza non viene ascoltata, una minoranza di qualche centinaia, forse qualche milione di persone, che sta veramente con le pezze al culo. Una parte di questa minoranza ha perso invece, al contrario di noi, che stiamo forse bene, quella di fiducia nelle regole che sono alla base del nostro vivere sociale, no? Che sono quelle della legalità. Quindi è un discorso un po' complicato, perché sì. Se mi fai vedere una foto... è chiaro, è congelare in quell'istante, è chiaro. Possono essere tre ultra della Lazio, della Roma, che hanno voglia di far casino, possono essere persone che tutta la vita hanno preso schiaffi e che non riescono più come noi a rispettare le regole del vivere civile. Bisogna avere un po' di... Ma è chiaro, sì, però sai, non so, oggi per esempio voi di Libero, Massimo, citate con la scusa della casa, cosa fanno? Ridevastano Roma, adesso il titolo non ce l'ho sotto mano, sì, comunque mi sembra... Sì, una cosa del genere, c'è sempre da considerare che poi quelli che le prendono dall'altra parte sono poliziotti a 1.100-1.200 euro al mese, quindi cioè quasi disperati come quelli... Che gli tirano i sassi in testa, Questa è sempre una considerazione che secondo me rappresentano prima di ogni altra, certo, di ogni rappresentano altra in quel modo. È chiaro che il bersaglio forse non è il poliziotto, il blindato, il carabiniere, rappresentano quello che si frappone, è chiaro, rappresenta quello che si frappongono tra lo Stato, o in questo caso per esempio volevano andare al ministero, no? Volevano andare al Ministero degli Affari regionale, dove si discuteva del diritto alla casa, e è chiaro che si frappongono giustamente per tenere l'ordine pubblico. Però Massimo, dimmi. No, questo volevo dire, la prima considerazione è questa, la seconda sono ancora con Giglio, in quei cortei c'è di tutto, compresi quelli che vanno lì solo per fare casino e che magari non stanno neanche così male come gli altri. E la terza considerazione è che non è che dopo che hai sfasciato le vetrine di tutte le banche che trovi o dei ministeri o rovesciato blindati hai risolto la tua situazione, tu stai male come prima. C'è una rabbia fine a se stessa, non porta nessuna parte. No, infatti il timore è questo, Alessandro, che ci sia questa rabbia, questi sfoghi, queste manifestazioni. Ma poi chi dovrebbe dare le risposte? La politica, l'istituzione? E niente, fino alla prossima manifestazione, o no? Posso dire, è quasi peggio, perché poi alla fine si parla solo degli incidenti, degli scontri, dei feriti, delle devastazioni e magari non del problema che era all'origine della manifestazione. No, è chiaro che i senza casa, che il problema delle case, il problema dell'accesso alla casa, il problema degli affitti, il problema delle case popolari, il problema degli sfratti, questi sono problemi concreti che riguardano centinaia di migliaia di persone, ma che non sono certo rappresentate da quei fotogrammi, appunto, che fanno giro dei giornali anche oggi. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, siamo in diretta, c'è la nostra segreteria telefonica, siamo con Alessandro Giglioli e Massimo De Manzoni dell'Espresso di Libero e ritorniamo tra pochissimo. 24 mattino. Salve Mila, sai cos'è questo? Il nostro governo è una barzelletta, hai capito? Che abbiamo un bamboccio viziato, non ha mai lavorato un giorno in vita sua, non sa neanche cos'è il lavoro, Presidente del Consiglio, un Presidente della Repubblica, che paese è il nostro? Si è segreto pur palese, se ne passa un altro mese, ma quando è che Berlusconi ci se leva dai... Sono veramente sconvolto per il povero Monteleone della Regione Liguria, l'hanno pugnalato alle spalle, poverino. Cosa ha fatto Mari male? Spendeva solo dei soldi che non erano i suoi. Tu pensa, non ci si può fidare neanche degli amici. L'hanno pugnalato. Berlusconi, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni, Berlusconi. Ale! Io a Berlusconi gli avrei fatto un salvacondotto proprio, gli avrei annullato tutte le sentenze, tutto quanto. Basta che si tolga dai coglioni, basta. Il voto palese e il PD, che vicenda affascinante, ancora non riescono a scovare quei 100 merdaioli, quei pelosi vigliacchi che hanno affondato Prodi e che oggi avrebbero aiutato ancora Berlusconi. Nessuno ha il coraggio di elencare i nomi, nessuno vuole scovarli. Altro che voto palese, che partito di merda. Vabbè, insomma, c'è la gente un po' su Berlusconi, caro Massimo De Manzoni, fanno la rima classica, vabbè, si sa, anche... io mi chiamo De Manzoni. E invece Giglioli chissà che... No, però devo salutare un vero eroe. Oh, Alessandro, questi sono gli eroi. Ci scrive su Facebook, si firma Lucius Brutus, vabbè. Caro Milan, io lavoratore anche oggi appeso su 8 piani di cantiere ascoltandoti. Un abbraccio grandissimo, saluta la ministra della giustizia, tra l'altro mi fa sapere con un PS, e saluta, e questo lo faccio, i muratori sottopagati, li saluto tutti ovviamente, è un problema anche e soprattutto nell'edilizia, un settore molto molto in crisi. Allora, che bisogna dire della politica, caro Alessandro? Che bisogna dire, caro Massimo? Che facciamo? C'è ancora il voto palese il voto palese su Berlusconi, è diventato l'ennesimo psicodramma del PD, si è subito trasformato così in due giorni. Alessandro, psicodramma. Nel PD, è come dire, ha fatto. Intanto diciamo una cosa, piaccia o non piaccia, quella che è successa l'altro giorno al Senato è stata la prima vittoria politica del Movimento 5 Stelle da quando è in Parlamento. Cioè il sì. Movimento 5 Stelle da febbraio è entrato in Parlamento, non ha combinato assolutamente niente, decine di proposte di legge finite questa invece. Con buona pace dei grillini che mi contestano quando lo dico, però la loro attività è stata finora come girare su una ruota, invece hanno ottenuto una straordinaria vittoria, secondo me, dal loro punto di vista, con questa cosa del voto, perché hanno costretto il PD a fare quello che il PD da infatti, non aveva infatti mai psicodramma, fatto. Adesso metà PD a dire abbiamo sbagliato, no, abbiamo forse un errore, forniamo il pretesto, e via, è partito lo psicodramma all'interno. Però il principio, secondo me, stavo da un'altra parte, se posso dire ancora una cosa veloce, cioè che il quello che ha fatto irruzione nel palazzo con la vittoria sul voto palese non è stata, secondo me, tanto una cosa relativa alla vicenda Berlusconi, che pure è importante, ma il fatto che non si accetta più l'opinione pubblica, la parte informata dell'opinione pubblica non accetta più che i parlamentari facciano le cose che vogliono in segreto. Se abbiamo dei rappresentanti, no? Noi siamo i rappresentati, abbiamo il diritto a sapere cosa, come scelgono. Questo è un principio di base che, come dire, che dovrebbe essere la vicenda Berlusconi. Sì, questo è vero. Massimo De Manzoni, allora, che succede? Come finirà questa vicenda che dice Gasparri? Nel mio bar parlano tutti della Lanzillotta. Non frega niente a nessuno. Io ho questa sensazione, non frega niente a nessuno di questa vicenda Berlusconi. Però, Massimo. Beh, è chiaro che i problemi concreti degli italiani sono altri, però è altrettanto chiaro che poi dopo noi, quando andiamo a votare, abbiamo dei punti di riferimento. Berlusconi, piaccia o non piaccia, lo è e lo è stato e lo è tuttora per milioni di italiani, per cui non freghi proprio niente a nessuno della sorte di Berlusconi, io non sono proprio convinto. Ma no, ma voglio dire, nel senso, rispetto a quanto se ne parla, diciamo, ecco, sembra che sì. Rispetto a quanto se ne parla, forse sì, forse è chiaro che, ripeto, il problema principale degli italiani non è la sorte di Berlusconi, però nel momento in cui, appunto, dopo ti riconosci, hai passione politica e ti riconosci in uno schieramento, la sorte del leader di quello schieramento, di uno come Berlusconi, poi che è dominus oltre che leader, che ha rappresentato per molti il baluardo contro una parte politica che non volevano e non vogliono assolutamente veder governare, ha un suo perché. Giglioli dice non nessuno deve votare con voto segreto, ma lì la discussione potrebbe essere lunga, perché la Costituzione più bella del mondo, il voto segreto lo prevede, poi la Costituzione più bella del mondo sempre e solo quando fa comodo. Sì. Detto questo, rimane l'anomalia che, anche se fosse giusto, è un principio che viene introdotto in una maniera non lineare, cioè cambiando un regolamento per sempre, ma un po' così surrettiziamente, trovando dei cavilli, e sempre per la solita persona, per Berlusconi. Questo per certamente. Lui fa le leggi di persona, gli altri le fanno contro persona, ma c'è sempre qualche anomalia nel caso di Berlusconi. Sì. Come Renzi che dice sì, la giustizia bisogna riformarla, però adesso aspettiamo che prima... Visto che tra l'altro hai citato Renzi, sentiamo Brunetta, una Brunetta al giorno, un Brunetta al giorno ci vuole sempre, questo è pochi secondi. Il governo lo farà cadere Renzi nei prossimi giorni. Ah, così, Brunetta, il governo lo farà cadere Renzi nei prossimi giorni. E quindi state tutti in campana, cari italiani. Allora, io vi ringrazio l'alpino Stefano, vado in montagna di questa bella, in una montagna bella di questa Italietta brutta, ci scrive. Quindi è sveglio con noi e lotta come un ascoltatore fedelissimo di Varese. Oggi si lavora, ci scrive, abbiamo fatto anche scattare l'antifurto. E vabbè, ho capito, maggiore attenzione. E oppure il tassista, eccomi tassista, eroe come molti, sempre in mezzo a una strada in tutti i sensi. Grazie a tutti, grazie Alessandro Giglioli, Massimo De Manzoni. Ci ritroviamo subito dopo il giornale radio con la rassegna stampa.

Era tutto abbastanza scritto, l'avevamo già detto qualche giorno fa, appena avvenuta la tragedia al largo di Lampedusa con centinaia di migranti finiti in mare e morti, ricordiamo quasi 400. Era scontato, no? Tante belle parole, tante passerelle, poi un po' il silenzio. Pensate, quando c'è stata la cerimonia funebre non c'erano neppure le bare, perché nel frattempo le persone erano state già raccolte dal mare e sepolte. Diciamolo francamente, c'è stata anche molta, tanta, troppa ipocrisia, a mio parere. Ieri, per esempio, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, altri 500 migranti sono approdati in Italia. Oggi il premier Enrico Letta fa un'intervista alla stampa, dice prometto compensazioni per Lampedusa, verranno messe nella legge di stabilità, quest'isola che è la porta d'Europa sta facendo tanto e ci vuole più impegno per i lampedusani. Ma in realtà nel silenzio dei mezzi di informazione questo fenomeno delle migrazioni continua e si può fare finta di niente, si può girare la testa dall'altra parte. Ci sono persone che continuano a morire, anche qualche giorno fa nel deserto dal Niger e l'Algeria sono morti diversi migranti perché si è rotto il camion che li trasportava e sono morti come si muore nel deserto, di sete. E ripeto, si può dire chi se ne frega, oppure se ne può parlare. Noi siamo qui laicamente a parlarne senza dare giudizi per un fenomeno che c'è ed è inutile negarlo. Lo vogliamo fare e ne parliamo oggi con Domenico Quirico, che è inviato della Stampa. Buongiorno Quirico e benvenuto. Buongiorno. Così come voglio salutare è un ritorno anche Don Mussi e Zerai, che porta voce dell'agenzia Bescia. Buongiorno Don Mussi e benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui. Allora, Domenico Quirico un paio d'anni fa ha fatto questo stesso viaggio, no? L'ha raccontato anche sulla stampa in un articolo molto intenso, da Zarzis a Lampedusa per cercare di capire che cosa spinge le persone a muoversi. E a me ha molto colpito in quell'articolo, Quirico, lei scriveva che la prima cosa che la prima caratteristica di tutti questi migranti è l'attesa, non tanto la paura, non tanto le preoccupazioni, ma l'attesa, cioè si attende per che cosa? Si attende per molte cose, per trovare i soldi, per pagare il mercante di uomini che ti faccia attraversare prima il deserto e poi il mare, si attende il capitano che sia disposto a partire anche con il mare cattivo perché costa meno, perché anche questo succede, ci sono delle tariffe diverse secondo se uno accetta il rischio di partire con le previsioni di tempesta e non aspetta invece il tempo buono, si attende la barca che è meno sfasciata e meno marcia di un altro, si attende il momento in cui la polizia fa finta di non vedere, parlo delle polizie dei paesi che deve attraversare, da cui deve partire, e si attendono molte cose, si attende di avere un barco libero nelle frontiere, delle innumerevoli frontiere che deve attraversare. La vita del migrante è una vita di attesa. Perché di questa attesa o di questo, parliamoci francamente, io sono abbastanza brutale a volte, ma perché di questo, del destino di queste persone all'italiano medio spesso frega niente? Molti dicono ma chi se ne frega con tutti i problemi che ci sono, ma chi se ne frega se sono morti, perché c'è questo atteggiamento? Perché purtroppo di queste persone le si è sempre considerate più che persone, cioè esseri umani che hanno delle storie, delle vite, delle speranze, un passato, un futuro anche qualche volta, e purtroppo spesso no, se ne parla più come numeri che come esseri umani, e i numeri vengono branditi per fare paura, cioè attenzione, arriveranno, sono milioni, sono lì pronti a partire, ci invaderanno, ci porteranno via il nostro piccolo paradiso di benessere e di vita normale, perché non li conosciamo, perché nessuno si scomoda andare a, e parlo anche di quelli che fanno il mio mestiere, si scomoda ad andare nei luoghi da cui partono, in cui decido di non vivere più perché non è più possibile vivere, per capire perché attraversano un deserto e fanno migliaia di chilometri, un viaggio che dura qualche volta anni, e perché si imbarcano su un battello marcio e provano ad attraversare il Mediterraneo a novembre, che è un'impresa terribile e disperata già in sé, perché spesso scriviamo che partono per delle ragioni che non sono quelle vere, perché non li conosciamo, ad esempio scriviamo che gli eritrei partono perché perché nel loro paese c'è la guerra, in Eritrea la guerra non c'è più da 15 anni, ma c'è un regime infame che li costringe a lavorare gratis come schiavi per lo Stato, e non hanno neanche e non c'è neanche la corrente elettrica, perché non hanno più i soldi, avendo comprato altre cose in tempi passati, ad esempio armi, non hanno più i soldi per comprare il carburante per far girare le centrali, perché non li conosciamo, ecco perché non contano per noi. Diciamo, la non conoscenza produce come anche sempre, come sempre. Allora, tra l'altro io voglio ricordare anche il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Io Don Mussi e Zerai queste cose le conosce bene, essendo anche eritreo e conoscendo insomma. Intanto Don Mussi, la vicenda di Lampedusa, io ho parlato di tanta troppa ipocrisia, lei ne ha vista oppure sono stato troppo duro, e se l'ha vista da parte di chi? Ma adesso ormai il tempo di polemica è passato, noi non abbiamo condiviso di come è stata gestita la cerimonia, anche tutto il rito funebre anche per le vittime, e anche scelte che sono state fatte di invitare personaggi non graditi in quella circostanza, purtroppo ci sono state delle cose che sono state fatte giusto tanto per farli, perché si era annunciato il funerale di Stato, che poi non è stato un funerale di Stato ma una cerimonia, che è finita per essere, diciamo tra virgolette, semplice passarella per qualcuno. E a parte questa, insomma, questa vicenda, lei dice però è le polemiche, il tempo delle polemiche non c'è più. Rimane il silenzio. Lei condivide quando Domenico Quirico dice il silenzio sul destino di migliaia, centinaia di migliaia di persone, perché dice Quirico nessuno le conosce, nessuno si prende la briga di raccontare le loro storie, oppure ancora più brutalmente le loro storie non interessano a chi è affaccendato nelle proprie vicende quotidiane. Sì, il silenzio, o chiamiamola anche l'indifferenza, che il Papa Francesco all'inizio del suo viaggio a Lampedusa ha denunciato, l'indifferenza verso queste persone che poi finiscono per diventare solo numeri o problemi, come vengono affrontati anche dal mondo politico, o spesso anche addirittura usati per campagne elettorali, per il tornaconto dei partiti, così parlando alla pancia della gente e creando più la guerra tra i poveri. Tutte queste cose poi portano anche le persone che non si interessano, addirittura possono arrivare a dire anche se ne frega se queste persone muoiono. E tra l'altro dietro a questi spostamenti, Quirico, c'è ovviamente un mercato vero e proprio, ci sono persone che lucrano e lucrano tanti soldi, non solo gli scafisti ma anche, voglio dire, forse anche gli stati o comunque pezzi corrotti degli stati da cui partono queste persone, ed è per questo motivo perché non si riesce a bloccare questo tipo di traffico. Sembra una cosa, insomma, via mare più controllabile rispetto magari alle frontiere via terra che sono più fragili, eppure non si riesce a dare una risposta netta a questo. Perché, Quirico? Ma perché i migranti rendono un sacco di gente, rendono ai militari, alle polizie corrotte dei paesi che devono attraversare, da cui devono partire, rendono spesso anche a uomini politici che ci hanno costruito, non parlo dei nostri, che ci hanno costruito sopra delle strategie. Basta ricordare Gheddafi, come utilizzava gli emigranti africani per le sue strategie politiche di ricatto nei confronti degli europei, li chiudeva dentro dei campi, poi intanto quando gli faceva comodo iniziava di aprire le porte, di lanciarceli contro, anche poco prima di cadere, di essere annientato nella guerra civile tribale libica. Ma, rispetto al 2011, quando ci fu il grande fenomeno della migrazione tunisina, perché nel 2011 fu una migrazione tunisina, c'è una differenza sostanziale, che allora i migranti erano dei ragazzi, erano delle persone che uscivano da un movimento, da un evento rivoluzionario, sì, da una rivoluzione vittoriosa che aveva battuto un regime, partivano portandosi dietro il bagaglio di quell'evento vittorioso, la gente che aveva una speranza e partiva per venire da in un altro posto per cercare un futuro migliore, ma era gente che credeva in qualche cosa, che aveva ottenuto qualche cosa. Oggi io sono tornato dopo il momento della terribile tragedia dei 300 morti a Lampedusa, ho trovato gli immigranti che erano gente con storie completamente diverse. Sì. Questi vengono da fuggono la morte e cercano solo la sopravvivenza, non hanno dietro alcun progetto, alcuna speranza, alcun sogno. È gente che fugge la morte, cioè si lasciano alle spalle una disperata, è più disperata oggi, molto più disperata oggi di quanto era 3 anni fa. C'era la cosiddetta primavera araba che in qualche modo dava un segno di speranza. Adesso invece questi lasciano proprio alle spalle una morte quasi certa e purtroppo a volte di fronte come in questo caso la trovano comunque. Io vorrei sentire un ascoltatore prima di andare in pubblicità. Enzo da Milano, buongiorno Enzo. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io volevo rispondere alla domanda che lei faceva, come mai adesso la gente se ne frega di tutto questo. Dice. Io volevo fare una scaletta, perché io oggi sono tra questa gente che se ne fregano, ma perché? Le spiego. Gli sbarchi avvengono solo da noi, solo noi siamo quelli che dobbiamo, diciamo, provvedere a questo impasse. Diciamo che questa gente che sbarca sono tutti disperati. Abbiamo un terzo delle carceri piene di questa gente. Perché? Perché vengono qui a delinquere, non tutti, sto generalizzando per un semplice fatto, perché c'è una manodopera, c'è una richiesta, ci sono state delle ville, diciamo, dove la gente all'interno della villa si è difesa, poi hanno preso questa gente che era straniera, che era sbarcata. Cioè, se dobbiamo fare una scaletta, alla fine di questo, siamo stanchi. Lei però dice, non sto generalizzando, però sta mettendo proprio un po' tutto nel calderone, Enzo. Ma io accolgo la sua telefonata e quindi lei dice, sono stanco, non me ne frega niente a questo punto. Sì, perché se dovessi fare una scaletta avrei bisogno di più tempo, ma se poi le metto 10 cose in fila, una dietro l'altra, poi alla fine non ce la facciamo più. Cioè, noi vogliamo essere veramente. Cioè, lei dice sbarcano solo qui, dobbiamo affrontare noi il problema. In realtà, vede, se poi come tutte le vicende possono essere viste da due facce diverse, perché uno potrebbe dire, certo, sbarcano qui perché siamo più vicini all'Africa, che dobbiamo fare? Lampedusa è uno degli approdi naturalmente, geograficamente più vicini all'Africa. Ce ne occupiamo solo noi. In realtà dovrebbe essere una questione dovrebbe essere di più una questione europea, con fondi, poi Frontex, che è questo strumento di controllo delle frontiere, è uno strumento europeo, quindi non è che ce ne occupiamo proprio solo noi, però siamo certamente un po' abbandonati a noi stessi come Italia rispetto all'Europa. E poi lei dice vengono qui a delinquere, da questi punti comunque interessanti partiamo dopo la pubblicità. 800 24 00 24, con noi c'è Domenico Quirico, inviato della Stampa, c'è Don Mussi Zerai dell'agenzia Abescia, e con voi tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37, rientriamo in diretta, siamo con Domenico Quirico, inviato della Stampa, con Don Mussi Zerai, portavoce dell'agenzia Abescia. Ci ha raggiunto e voglio salutare anche da Lampedusa Gilda Violato, che è operatrice legale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Buongiorno Violato e benvenuta. Buongiorno. Fatemi sentire un altro ascoltatore, Mauro da Brescia. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Due cose a Milano. Allora, buongiorno a tutti. Due cose molto rapide. Non è vero che siamo tutti indifferenti e così a questa faccenda degli immigrati, soprattutto quelli che muoiono nella traversata del mare di Sicilia. Dico io, magari io personalmente ci mancherebbe, non sono come dice lei, non voglio far parte di quegli ipocriti che dicono poverini qui, poverini là, e poi non fanno assolutamente niente. Sì. Però è chiaro che dispiace questo fatto qui, come diceva prima Quirico, perché non si conoscono le storie di questa gente. Però detto questo, dico, ma l'ONU, lasciamo perdere l'Italia, l'Europa, l'ONU che hanno tante ambascerie nel mondo e così via, perché non costituiscono, non so, delle ambascerie, dei consolati nel Nord Africa, protetti dai militari dell'ONU, la gente va lì in modo che siano dei punti di riferimento, Ah, un'altra correzione, non è vero che la Sicilia è quella più vicina, perché Gibilterra è molto più vicina, sì, ma la faccenda la viene trattata in modo diverso. Gibilterra è vero, è vero, torniamo a noi. Cioè lei dice perché quindi, l'ONU non tratta degli uffici. Scusi. Milano, allora sì. Io un po' di tempo fa ero andato a vedere il traghetto Tunisi-Palermo, costa 24 euro, sì. Quindi di fare in modo di togliere quella gente, quindi prima di tutto, se devono attraversare, attraversano in sicurezza, prima di tutto, e secondo di tutto, invece di spendere 2000 euro o 2000 dollari, ne spendono 50. Ma sa, voglio dire, uno che fugge da un paese dove c'è la guerra, senza documenti, eccetera, lei se lo vede che va tranquillamente a prendere il traghetto Tunisi-Palermo, dove ci sono delle frontiere da superare, gli chiedono i documenti, il passaporto, cioè, Mauro, è un mondo un po', cioè, lei pone una visione molto europea a una situazione che non è ugualmente paragonabile. Non so, Domenico Quirico, come la vede, insomma, la posizione dei due ascoltatori che ha sentito? Quello che posso dire è che la politica dell'immigrazione è uno degli aspetti più complessi, complicati e difficili alla politica di uno Stato, nel senso che non esistono secondo me delle formule perfette per affrontarle, per risolverle. Cioè, quelli che dicono non vogliamo nessuno e anche quelli che dicono invece li prendiamo tutti, entrambi dicono delle cose che non possono essere poi, per ragioni etiche o per ragioni pratiche, non possono essere realizzate. Il problema, credo che stiamo parlando di soggetti, e intendo ad esempio l'Europa, che non esistono, cioè noi li inseriamo in questo discorso come se fossero dei soggetti politici che operano, che hanno una politica, che hanno una strategia o qualche cosa del genere, cosa che invece non esiste. Sono concetti astratti. Se volete una prova che l'Europa è una finzione colossale e per certi aspetti anche un po' grottesca, allora prendete il problema dell'emigrazione dall'Africa e avrete la prova matematica che stiamo parlando di un fantasma. Proprio su questo tema dell'emigrazione, l'Europa, dice lei, è assolutamente impotente e inutile, un vero e proprio ectoplasma. Io vorrei, sia da Don Musa Zirà e Gilda Violato, partirei prima da Lampedusa, Gilda Violato, a capire questo punto di vista europeo visto da lì. Sa che oggi il premier Enrico Letta, in un'intervista alla Stampa, non avrà avuto ancora modo di vederla, dice no. dovremo dare più compensazione a Lampedusa dal punto di vista nella legge di stabilità e poi vogliamo prendere spunto da quello che ha detto Barroso, che è venuto a Lampedusa, a dire ci vogliono più fondi e quindi lo prendiamo come uno spunto di entusiasmo. O lei invece la vede come Quirico, che dice ma stiamo scherzando, l'Europa non esiste sul tema migrazioni, proprio è lampante? Noi abbiamo parlato con Letta e con Barroso quando sono venuti qui in visita qualche settimana fa e crediamo in una, come OIM, in una cooperazione internazionale dell'Europa, che sia con i paesi di origine come chiave per evitare il verificarsi di tragedie di questo genere, e anche cooperazione sempre da parte dell'Europa, quindi non solo dell'Italia, con i paesi di transito come la Libia e l'Egitto. Cooperazione che debba essere intesa non solo come controllo delle frontiere, per cui l'Europa. Cooperazione, appunto, cosa significa concretamente cooperazione? Diciamo che misure, l'Europa dovrebbe iniziare a prendere in considerazione, a nostro parere, dei canali comuni per una migrazione regolare e delle misure fattive contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Cioè, questo è il cosiddetto corridoio umanitario. Don Musse, lei ci aveva già parlato di questa possibilità di aprire un corridoio umanitario, cioè verificare quelli che hanno diritto in quanto potenziali richiedenti asilo, eccetera, e fare un corridoio umanitario per evitare che debbano fare questi viaggi eterni nel deserto, prendere la barca, rischiare di morire, eccetera. È questo, Don Musse, il senso che legge nelle parole di Gilda Violato? Ma la cooperazione di cui si parla non è mai stata usata in passato con la Libia, soltanto che la Libia è finita per approfittarne e continuare a ricattare l'Italia e l'Europa usando i migranti come arma. O mi date questo o vi mando migliaia di migranti. Se questo è il modo di cooperare, questo non funziona. E comunque, anche se la cooperazione deve essere intesa solo come chiudere le frontiere, quindi costringere a questi paesi del Nord Africa di tenersi in casa tutti i profughi che arrivano, quindi li tengono poi in condizioni sì. disumane. Basta andare a vedere i centri di detenzione in Libia, i testimonianze che ci raccontano di abusi di ogni tipo, maltrattamenti, privazioni, discriminazioni. Quindi se questo la cooperazione, anche l'Europa si rende complice di queste violazioni, e allora il corridoio umanitario dovrebbe essere invece identificando quelle popolazioni. Oggi una persone che arrivano dalla Somalia, una Somalia devastata dal 94 ad sì. oggi, una terra devastata dalla guerra, e non c'è molto da domandare, per cui nel corridoio umanitario queste persone vengono direttamente, cioè si fanno, che ne so, dei ponti aerei, dei modi per farli venire, non so. Gilda Violato, era questo il senso della proposta? Concordo oppure... con quanto è sì, concordo sì. con quanto è stato appena detto. Concorda, cioè questa è l'idea, individuare quei popoli che sicuramente hanno... In ordine alla, diciamo, io posso semplicemente dire che crediamo in questo tipo di cooperazione, a poi quelle che sono le misure che verranno, mi auguro, adottate, certo non sono io operatrice sul campo a ma poterlo chiaro. Dire. Ecco. Questo certamente, ricordiamo tra l'altro l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, che lei qui rappresenta, è fondata nel 1951, insomma è la maggiore organizzazione intergovernativa che si occupa di questi temi, e tra l'altro la sede di Roma è proprio quella che si occupa anche per questioni geografiche del coordinamento di tutti i paesi che stanno nel Mediterraneo. Allora, visto che spesso si è detto non li conosciamo questi migranti, queste persone, le loro storie, Domenico Quirico li ha conosciuti, visto che tre anni fa ha fatto questo viaggio da Zarzis a Lampedusa insieme a loro, cioè mischiato con loro per raccontare dal di dentro che cosa spinge alcune di queste persone che ha conosciuto a fare questo viaggio. Tra poco, dopo il traffico, ci potrà raccontare qualcosa di più di queste facce, di queste storie. Tra poco. Eccoci qua, allora 8:47 minuti. Domenico Quirico, chi sono queste persone? Lei ha incontrato, immagino, qualche centinaia, insomma, in questo viaggio, quindi si può fare una fotografia magari parziale, ma le persone che ha incontrato sono... Ripeto, parlo di 2 anni fa, perché il viaggio sì. l'ho fatto 2 anni fa, e oggi queste persone sono totalmente diverse, vengono da luoghi diversi, hanno storie diverse, speranze diverse, se ce l'hanno. Beh, 2 anni fa erano dei ragazzi, erano tutti giovani, e il più vecchio aveva avuto, non so, 20-22 anni. Sapevano, ecco, questo è un elemento che credo che bisogna raccontare, bisogna ripetere, al contrario di altre immigrazioni, parlo ad esempio quella degli albanesi molti anni fa, che era nata da una, come dire, da una falsa conoscenza, nel senso che pensavano che l'Occidente fosse una specie di albero della cuccagna a cui uno poteva mettere mano e prendere quel che voleva, perché conosceva l'Occidente attraverso la pubblicità della nostra televisione. I ragazzi che hanno fatto nel 2011 il passaggio del Mediterraneo per venire a Lampedusa, la gente che sapeva benissimo che l'Europa non li amava, che non li avrebbe amati, che avrebbe cercato di respingere, perché li considerava come una sorta di invasori pericolosi che venivano a rubargli il denaro, il lavoro ed altre cose. E nonostante questo, nonostante sapessero benissimo che il viaggio in mare era terribile, pericoloso e che, come ahimè molte volte è successo, poteva trasformarsi in una tragedia, nella morte, facevano questo passaggio. E lo facevano per il contrario di quanto, tra loro c'erano anche alcuni che erano, come se vogliamo, delinquenti, ma non erano certamente tutti banditi, certamente non era gente che veniva qua per rapinare le ville, venivano per vedere che cos'era questo mondo che per 20 anni era stato loro proibito. Non dimentichiamo che l'emigrazione all'epoca delle dittature del Nord Africa non era possibile, certo. Era un reato. È un reato perché noi avevamo fatto degli accordi di cooperazione, per usare la parola, con i regimi che stavano in questi paesi, ed erano Mubarak, Gheddafi, Ben Ali, per impedire a questa gente di partire, questa gente non partiva perché i regimi poliziescamente funzionavano benissimo, in cambio del fatto un po' di la nostra cooperazione era far finta di non sapere che cos'erano quei regimi. Certo. E quindi era anche un modo di conoscere un mondo che non avevano conosciuto finora. Fatemi sentire un altro ascoltatore. Omar ci chiama da Brescia e mi dico la redazione ha fatto quel viaggio lì in pratica. Omar, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per farmi partecipare. Allora, il discorso qual è? Io sinceramente sono stato sbarcato a Lampedusa dalla Tunisia. In che anno? Nel 94. 94. Pagando $1,200 assieme a tutta la gente. Da dove? Di dove è originario? Dalla Tunisia. No, ma lei di dove è originario? Io sono originario marocchino. Marocchino. Del Marocco. Sì. E perché diciamo, ha fatto? La legge marocchina. No, la legge marocchina comunque puniva anche un anno di carcere per quelli che vadano e quelli che sbarcano, non so, in Spagna e tutto. Al di là che la Spagna ovviamente non dava aiuti, che faceva l'Italia. Lei l'ha fatto ovviamente $1,200 che ha dovuto pagare, immagino, a un'organizzazione. All'organizzazione, che tra l'altro questa organizzazione sono tutti i capitani dei porti, sono tutti i miei politici. $1,200 sono tantissimi per il Marocco e per il 1994, sono tanti. Allora, le spiego, io ho lavorato in Tunisia nell'albergo, che tra l'altro è un albergo gestito dei sauditi, con tutte le mance che mi sono fatto di lavoro di un anno e mezzo in albergo, ho dovuto pagare 1,200 e c'è anche da pagare di più di me. Che la gente che magari è arrivata che lavoravano in Libia, in quelle parti là, sono arrivati in Tunisia e non ti dico, in Lampedusa ci sono alcuni scogli che ci sono con documentazioni, soldi, vestiti della gente buttati là, che è la prima cosa che ho visto, che avevo pianto, ho fatto un le chiedo Omar, che effetto le fa sentire che molti, che alcuni italiani dicono ma chi se ne frega insomma di queste vicende, vengono qui per rapinarci? Allora, io non do colpa agli italiani, sinceramente, visto che ho vissuto anch'io, sono tra l'altro cittadino italiano, ho preso la cittadinanza per la residenza, dico che più che altro è stato anche un intervento anche della comunicazione, televisione, radio e tutto. Il discorso qual è? Che ricordiamoci che negli anni 90 c'era la cronaca marocchina, ogni sera sentivi marocchini, spacciatori, ladri e tutto, poi dal 97 in poi albanesi. Quindi dici no, è chiaro, i mezzi di informazione hanno anche contribuito a creare questa situazione. Omar, io la ringrazio anche perché ho 3 minuti per concludere, allora volevo dedicarli a Domenico Quirico e fargli un paio di domande, insomma, perché Domenico Quirico sappiamo è stato anche suo malgrado, è passato agli onori della cronaca, è diventato celebre per i, credo, 152 sono i giorni in cui è rimasto rapito in Siria a Quirico. Sì. Io volevo semplicemente capire, io l'apprezzo molto, la leggo sempre con molta attenzione sulla stampa, ho visto che è tornato a scrivere, a fare il lavoro di sempre eccetera, volevo capire se questi 152 giorni è una vita che si può o dimenticare o comunque ricomporre in una maniera il più sereno possibile adesso che è tornato a casa. Dimenticare non è possibile, ma nel senso che è uno spazio di tempo e di esistenza che ti è stato sottratto e che diventa una specie di sorta di, insomma, voglio dire, uno spazio vuoto, nel senso che tutti i giorni in cui sei stato in prigionia avresti potuto fare altre cose, vivere altre esperienze, muoverti in altro modo, in questo senso non è possibile dimenticarlo, ma si ricomincia da dove si è partiti, nel senso che il mio mestiere è quello di raccontare le storie, trasformare questi numeri di cui parlavamo prima, in esistenze, in volti, in facce, in persone, in identità umane. Allora, per fare il mio mestiere, questo, il mio stesso va soltanto in questo modo e non in altro modo, non catastando statistiche o raccogliendo interviste a Barroso o al governante di turno, e andando lì dove queste storie nascono. Partecipando a quelle storie per un periodo evidentemente molto, molto ridotto, perché insomma io faccio il viaggio con i clandestini, con gli emigranti da Tunisi a Lampedusa, ma poi il loro viaggio continua, il mio viaggio si ferma lì, io divento certo un'altra cosa, io non sono loro, però se li racconto, per raccontarli, per avere il diritto di raccontare, bisogna andare lì, essere con loro chiaramente. E oggi però, per esempio, Avvenire titola in prima pagina Siria, la strage dei cristiani, ecco, lei ha detto è un paese molto cambiato anche, e lo ha sperimentato sulla propria pelle. Insomma, che paese è la Siria oggi? Un paese dove non si può più andare a raccontare? Si incastrano molte guerre, l'una nell'altra, la guerra dei ribelli contro il regime, la guerra dei sunniti contro gli sciiti, la guerra le guerre tra procura dell'Arabia Saudita contro l'Iran o della Russia contro gli Stati Uniti, ed è il paese in cui la sofferenza umana, per restare su questo tema, raramente è stata così profonda e così vasta, in cui ci sono stati 20 milioni di persone, quotidiana, è la quotidianità del dolore, la quotidianità del dolore, e 120.000 morti. Non siamo riusciti a trasformare 120.000 morti in due anni in una storia di coscienza collettiva, non siamo riusciti, in parlo dei giornalisti, quelli che ci sono stati, che l'hanno raccontato, non dei politici, e non so, in due anni e mezzo non sono riusciti a trasformare questa, l'immensità di questa tragedia, in una mobilitazione collettiva. Ne abbiamo portato, non dico in piazza, ma neppure sul marciapiede, 10 persone per la Siria. Questo è un fallimento del giornalismo come coscienza del mondo, permettetemi un minimo di retorica. Eh no, ma è assolutamente ben accetta e ci sta, quando ci vuole ci sta. Io mi devo fermare qui, ringrazio tutti, Domenico Quirico, inviato della Stampa, Don Mussi Zerai, che ricorda il portavoce dell'agenzia Abescia, e voglio ringraziare anche Gilda Violato da Lampedusa, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ci fermiamo, ripartiamo, continuiamo, perché tanto noi eravamo in diretta anche oggi, ringraziando Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli e Anita Panizza in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a lunedì alle 6:30.